Sulle infrastrutture, naturalmente fatte bene servono, ma ho dei dubbi che molte delle infrastrutture fatte in Grecia, Spagna e anche in altri paesi siano state veramente così efficaci. Nella serata di mercoledì 2 maggio, 20 milioni di francesi avevano seguito il confronto televisivo fra i candidati alla presidenza in vista del secondo e decisivo turno elettorale di domenica. Secondo molti osservatori, il faccia a faccia si era chiuso con un sostanziale pareggio, un risultato che avrebbe favorito Hollande, avanti di circa 7 punti nei sondaggi. I temi economici e le dinamiche interne all'Unione Europea sono stati sicuramente punti determinanti. Durante il confronto non sono mancati nervosismo e vivaci scambi di accuse. Sarkozy ha accusato Hollande di essere il candidato della spesa pubblica e di non avere sufficiente esperienza per gestire una situazione di crisi. Il candidato socialista ha rinfacciato al presidente uscente i risultati deludenti della sua presidenza. Hollande, in particolare, ha accusato Sarkozy dell'aumento esponenziale del debito pubblico registrato durante il suo mandato. Sentiamo. Parlons de la dette publique. Elle a augmenté de 600 milliards d'euros depuis le début du quinquennat. Parliamo del debito pubblico. È aumentato di 600 miliardi di euro dall'inizio dell'amministrazione di Nicolas Sarkozy. E se faccio il conto dal 2002 ad oggi, allora l'aumento è di 900 miliardi di euro. Le double. Nel 2002 il debito era infatti a 900 miliardi, ora è a 1800 miliardi, il doppio. Ripeto, il doppio. Ecco la responsabilità della squadra uscente, il debito. Gli interessi sul debito sono ormai la seconda voce di spesa del bilancio dopo la scuola. Ogni anno dobbiamo pagare in interessi una cifra quasi uguale a quello che viene coperto con le imposte sul reddito. È una cifra considerevole e certamente questo processo va fermato. Nous recouvrons d'impôts sur le revenu. C'est considérable. Bien sûr qu'il faut arrêter ce processus. Nel dibattito, uno scambio di battute ha riguardato anche Silvio Berlusconi. Citando l'Italia fra i paesi in difficoltà, Hollande ha ricordato a Sarkozy per colpa del suo amico Berlusconi. Secca la replica del presidente uscente. Berlusconi non è mio amico e non è del mio partito. Sebastiano Barisoni, giovedì 3 maggio, aveva commentato il duello televisivo con Jean-Paul Fitoussi, professore a Parigi e all'Università Louis, presidente del Centro Studi dell'Osservatorio Francese di Congiuntura Economica. Per i francesi chi è andato meglio ieri? Non si può dire così, dipende dalle sue proprie convinzioni. Io ho trovato che sull'Europa Hollande è stato molto più convincente che Sarkozy, perché fa crescere un po' di speranza in questa vecchia Europa dove da quanto si porta il riguardo c'è l'austerità. E come lei parlava di Keynes prima, l'austerità non fa bene né alla disoccupazione né al benessere della gente, e si vede bene. Allora, visto che oggi Fitoussi, visto che oggi Mario Draghi ha detto: non c'è nessuna contrapposizione tra fiscal compact e growth compact, cioè tra mettere sotto controllo la spesa pubblica e quindi fare riduzioni di deficit e debito e trovare delle misure per la crescita. Secondo lei cambia tutto. Certo. Cambia tutto, perché una rimarca. Se c'è crescita, l'austerità fiscale non fa male. Certo. Se non c'è crescita fa un male tremendo. E questo è il problema. Se abbiamo veramente un programma di crescita, allora viva l'austerità e le conti in ordine. I conti in ordine, certo. E anche appunto tagli se il paese cresce. Ma anche se vincesse Sarkozy, secondo lei non sarà più come prima? Cioè, ha capito Sarkozy che il suo schierarsi a tappetino, a zerbino con la Germania non gli ha portato consenso? La Francia è il paese dopo l'Italia più a rischio in Europa, cioè la classifica poco invidiabile, cioè Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna, Italia, Francia, prego. Sì, l'avevo detto da 2 anni che questa crisi non risparmierà nessun paese, anche la Germania. La Francia è a rischio e devo dire che anche Sarkozy